Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Il mondo è bambino dappertutto, non solo qui nel nostro asilo, ma anche nella sterminata Russia. No, sterminata non è la Russia, sterminata è la Cecenia, Drago, dai. Ma sì, ma non nel senso di molto esteso. Ho capito, dai, capito. Ma vabbè, mica ricevere sì, una lettera piena di ironia dall'ambasciatore russo. Guarda come fanno queste cose. Sì, c'è sì. L'ambasciatore russo. Beh, certo. Vabbè, ma tu me le porgi su un piatto d'argento. Vabbè, dai, allora. Non ti ho anche detto che piatto il era? Il piatto su. È sempre d'argento. Il piatto d'argento. Va bene, di bronzo andava bene lo stesso. Allora, il bambino Putin ha deciso di puntare tutto sui bambini per i prossimi anni. Illustrando il piano quinquennale, Putin ha invitato i russi a fare più figli. Ma il piano quinquennale è roba da Stalin. Infatti no, mi sono sbagliato, anche Brezhnev, però mi sono sbagliato. Putin ha parlato comunque per l'ultima volta alla Duma prima delle elezioni di dicembre e ha fatto un discorso molto importante, enunciando le linee guida per la Russia del futuro, proprio come un piano quinquennale. La cosa su cui conta di più Putin è l'incremento demografico. Vuole più bambini per rendere più grande la Russia. Quindi la Russia si prepara a diventare il più grande asilo del mondo. Vabbè, però per far nascere i bambini non è che basta Putin che parla, ci va tutta un no, sì, tutta però, una pratica. La pratica, lui ha promesso $9,200 per ogni figlio nato a 9 mesi dal suo discorso e quindi credo che come afrodisiaco possa funzionare. 9,200? Ottime notizie per i bambini che se la fanno addosso, Ora basta andare all'ospedale Bambino Gesù in Roma e con un piccolo intervento chirurgico il problema è risolto. Visto come progredisce la scienza, Che intervento è? Ma come? Dall'articolo non si capisce, minimizzano, parlano di metodica chirurgica innovativa. Però nessuna parola su quale parte viene tagliata. Ma allora non mi fido, scusa. Beh, tu mica soffri di incontinenza pediatrica, scusa. No, però a volte mi succede. Vabbè, lasciamo perdere. No, parliamone. Sono cose che vanno affrontate queste. Cosa succede a volte? Dai, sfogati. No, dai. Ma succederà anche a te, no? Che a volte finisci di fare la pipì, poi, non so, ti capita, vai in ascensore. Ah, beh, certo, capisco. Le perdite in ascensore, le perdite di urina in ascensore. Sì, pure, vabbè, insomma, sono una piaga della società moderna, le perdite in ascensore. Ci sono anche gli spot dedicati alle perdite in ascensore. Però perché non si fa mai le scale? A Biccari, provincia di Foggia, hanno gettato la maschera, hanno invitato i bambini dell'elementare al consiglio comunale e hanno fatto decidere a loro cosa fare e cosa non fare. Esasperati dall'immaturità dei consiglieri adulti, sindaco e giunta hanno deciso di aprire le sedute ai bambini perché tanto era uguale. E quindi un applauso al sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna. Scusa, hai fatto tornare quelli della classe. Eh sì, stavolta i 20 euro li ho preparati prima, loro sono venuti. Sacchettino con panino e bibita. L'acqua, non la bibita. Consolati con la bambola se non puoi avere la donna vera. È così che funziona. Adesso un incitamento al sesso con bambole gonfiabili. Sei impazzito. Siamo in fascia protetta. Ma c'è bambola... gente che fa la merenda mentre ci ascolta. Infatti, parlavo della bambola di Princess Catherine. Parole povere, la bambola in stile Barbie di Kate, la ex Kate Middleton. Come ex? La Kate che conoscevi adesso tu. Adesso è Lady Catherine. Sì. Costa solo 35 sterline. Ha un bellissimo vestito azzurro minimale. Ed è, diciamo, in abiti borghesi. Poi c'è però l'alternativa, è la bambolina di porcellana di Kate, cioè di Princess Catherine, vestita da sposa. No, ma no, quella no, quella mi mette tristezza. Per via della porcellana. Ma no, per via della sposa, no, l'occasione perduta, certo, ha fatto la cazzata Kate. Povera Kate. Ma scusa, ma la bambola di Pippa non l'hanno ancora fatta? Gonfiabile, dici? Lei sta dicendo che è una questione un po' ad asilo Mariuccia, mi pare di capire. È una questione di insomma, non è più... Sì. Il Venlo, squadra di prima divisione olandese, calcio ha messo sotto contratto per 10 anni un bambino di 18 mesi, capo. Pensiamoci, si chiama Barke van der Meij e magari da grande farà il pescatore o l'insegnante, oggi comunque a un anno e mezzo è già sotto contratto. Il club ha pure fatto una conferenza stampa in cui al povero pupo è stato fatto scarabocchiare un finto contratto, quello vero l'hanno firmato i genitori ovviamente. Sembra che il piccolo Barke, proprio dopo aver firmato il contratto, se la sia fatta addosso tra l'imbarazzo dei dirigenti del Fellow. Quindi no. Un altro applauso anche a Barke van der Meij, che già sa come ci si comporta in certe situazioni. Bravo Barke van der Meij. Cagarsi addosso. Sì, per... in certe situazioni così dove ti forzano a firmare un contratto, capito? Bravo. Prossima volta anche tu, quando vai qui a Radio 24 a firmare il contratto per la prossima stagione, che è sicuramente garantita. Sì. Ecco. Fai anche tu come Barke van der Meij, poi vedrai che. Allora, mi senti? Yeah, I hear you. Ok, allora, facciamo che io facciamo il freestyling. E tu facciamo il coro. Volenterissimo. Gildo, che noia mortale giocare da solo a battaglia navale. Gildo, sono triste e solitario. Gildo, facciamo che tu eri Gildo, il mio amico immaginario. Gildo, vai con la base. Gildo, sei come un fantasma. Gildo, nessuno ti vede. Gildo, ma c'hai la voce con l'asma. Gildo, Gildo, siamo culo e camicia. Gildo, io sicuramente sono la camicia, quindi necessariamente tu devi fare il coro. Facciamo merenda? Giochiamo l'invio? Montiamo una tenda? Giochiamo la Wii? Facciamo una festa? Chiamiamo due escort? Anzi, due testa? Però paghi tu? Gildo. Allora Gildo, facciamo così. Questa volta paghi tu. Ma Tito, cosa? Calma, Tito! Cosa c'è? Bravo! Allora, siamo invasi dai bassotti Geure! Aiuto! Guarda come salta! È inafferrabile! È inagguantabile! Come faremo a sopravvivere? Dobbiamo resistere! Sì, ma come? Kappa! Ormai per me non c'è più niente da fare. Kappa, no! Lasciami al mio destino. Maledetto bassotto Geure! Mi vendicherò, costi quel che costi, e fermerò questa terribile invasione dei bassotti Geure! Continua su queste frequenze. Ieri sono andato al cinema e però c'era Margherita e non mi voleva parlare. E ha visto il film e ha fatto, e poi è andato. Sembra caccia. E poi Margherita non gliel'ha data, però. No, così. Perché lui va al cinema e poi però lei non vuol parlare. Lì. Margherita, salutiamo Margherita e ringraziamo la nostra nuova stagista che ha contribuito già ormai da due giorni. Quindi fondamentale. Fondamentale, se volete salutare Margherita, scrivete a Chiedo asilo at radio24.it. Vi risponde Margherita. È andata al cinema e poi è andata al cinema. Chiedo asilo.